24 di Giovanni Minoli. Mosca ha dato il via libera ai raid aerei in Siria. Per ora solo i caccia sono intervenuti e sono stati effettuati una ventina di raid aerei. I bombardamenti iniziano poco dopo il sì all'unanimità della Camera Alta del Parlamento russo. Mosca avvisa Washington dell'inizio dei raid, segno che il canale diplomatico è aperto. Ma il segretario di Stato Kerry ammonisce: i raid russi non aiutano. Nel grande gioco della guerra dell'ISIS la Russia si muove da sola dunque. Sarà una crisi difficile e lunga, non è difficile prevederlo. E bisogna capire quale sarà il ruolo dell'Europa. Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa. Gaiani, adesso bombardano i russi, dove? Dove non è ancora chiarissimo. Di sicuro si sa che hanno lanciato bombe nel settore di Homs dicendo di colpire dei bersagli dell'ISIS, ma in quel settore non ci sono solo i miliziani dello Stato Islamico, ma anche altre forze ribelli islamiste legate appunto ai gruppi ribelli che combattono il regime di Bashar al-Assad. E che con che mezzi bombardano? Per quanto ne sappiamo, loro hanno schierato in Siria dei cacciabombardieri Sukhoi 30, dei bombardieri Sukhoi 24 e aerei d'attacco Sukhoi 25, che vengono impiegati anche dalle forze irachene e anche da quelle siriane. Ecco. Quindi diciamo i velivoli che le forze russe hanno a disposizione per questo tipo di missione. Ma quindi russi e americani bombardano insieme in Siria? Questo è il risultato dell'incontro di New York? Ma direi di sì, anche se probabilmente l'accordo di New York, che non ha portato a un'alleanza ovviamente tra americani e russi, ha portato sicuramente a qualche accordo, quello delle scatole. Quando i russi fanno sapere agli americani che in quel settore, quel box, operano i loro velivoli, quelli della coalizione, probabilmente anche quelli turchi, si tengono alla larga e così avverrà. E quello può essere il risultato dell'incontro a quattro occhi tra Putin e Obama? Ah, io credo che soprattutto sia stato un accordo fatto anche precedentemente nell'incontro di Mosca con Netanyahu, con Israele, per evitare sovrapposizioni e il rischio di incidenti nei cieli siriani che sono molto affollati. Ci volano tutti, israeliani, coalizione, americani, turchi, oggi anche i russi. Senta Gaiani, anche la Francia bombarda. Perché? Ma la Francia ha fatto sollevato molta polvere per un raid piuttosto ininfluente, poche bombe a basso potenziale su uno campo d'addestramento dell'ISIS nella zona di Raqqa. La Francia ha voluto dimostrare che nel scenario siriano bisogna fare i conti. Ci sono anche loro. Sì, ma militarmente non sono in grado di dire tanto. E i paesi arabi contribuiscono alla coalizione anti-ISIS come? Ufficialmente con alcuni aeroplani, ma fin dall'inizio della loro adesione nel settembre dell'anno scorso, i paesi delle monarchie del Golfo hanno chiesto al comando alleato che sta in Qatar delle forze aeree di non rivelare dettagli sul loro impiego militare. Perché? Perché l'opinione pubblica sunnita non vede di buon occhio questa operazione contro fratelli sunniti come sono quelli dell'ISIS e perché in questo momento i paesi arabi del Golfo sono impegnati con un maggior consenso popolare a combattere nello Yemen, dove il nemico sono i miliziani Houthi che sono sciiti. Ecco, dottor Gaiani, la linea di disponibilità di Renzi cosa significa militarmente? Ma noi militarmente, in una coalizione che sta facendo una guerra estremamente blanda all'ISIS, noi facciamo ancora di meno, non colpiamo l'ISIS in Libia che è di fronte alle nostre coste a poche centinaia di chilometri dall'Italia, ma anche in Iraq siamo dei 22 paesi che hanno aderito alla coalizione quelli che fanno meno, abbiamo istruttori certo che addestrano le milizie curde a Erbil, ma sul piano dell'aereo i nostri sono gli unici bombardieri, 4 Tornado che operano sull'Iraq privi di armamento, quindi solo per missioni di ricognizione. Quindi in l'Italia non partecipa in assoluto ai bombardamenti? Attualmente, finora in questo anno di operazioni non abbiamo lanciato una sola bomba contro i miliziani dell'ISIS, per questo un maggiore impegno è facile da attuare, basta fare poco di più e già sarà qualcosa di più di quello che si è fatto finora. Ecco, ma ci può dare per chiudere dei numeri sulle forze in campo? Forse numeri che ci dicono quanto scarso sia stato l'impegno della coalizione nei termini di bombardamenti aerei in questo anno. In totale si sono effettuate, i paesi della coalizione, 6.800 incursioni aeree, al 95% portate a termine da velivoli statunitensi, circa un terzo in Siria e il resto, i due terzi, in Iraq. Per intenderci, questo si è fatto in un anno. In Kosovo, solamente in Kosovo, in appena due mesi di guerra contro la Serbia nel 1999, le missioni di attacco furono 38.000. Allora gli aerei da combattimento impiegati furono 600, in questo caso quelli schierati sono poco più di un centinaio. Quindi sostanzialmente l'ISIS non lo vuole combattere concretamente nessuno? Beh, solo a parole, perché nei fatti, basta fare un esempio rapidissimo, nel 2001 con pochissime forze gli americani in 6 settimane presero Kabul, comunque cacciarono i talebani da Kabul, e in altrettante 6 settimane nel 2003 presero Baghdad e cacciarono il regime di Saddam Hussein. Impossibile che in un anno non sia possibile trovare forze anche risicate per poter prendere Raqqa. Ma forse il problema è proprio, quello politico, le azioni che lei ha citato non hanno risolto poi nessun problema, perché politicamente il dopo non c'è stato. No, certo, sul piano politico questo aspetto è tutto da valutare, ma sul piano strettamente militare, dire che ci vorranno 20 anni per conquistare il territorio in mano allo Stato Islamico è un'eresia. Lo dimostra un dato che storicamente è incredibile: da quando è la prima volta da quando esiste l'aviazione militare, quindi da 100 anni, quando gli italiani lanciarono le prime bombe sulla Libia nella guerra contro i turchi nel 1911, che una forza militare priva di aeronautica e priva di contraerea, come è lo Stato Islamico, riesce a condurre azioni offensive e a vincere battaglie conquistando città come Ramadi e Palmira in campo aperto contro un nemico che in teoria ha il dominio totale dell'area. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Dunque la Russia, abbiamo sentito, ha iniziato i bombardamenti in Siria. Allora andiamo dentro la notizia. Dentro la notizia. E la nostra domanda di oggi è proprio questa: questo coinvolgimento militare della Russia è una svolta nella guerra contro l'ISIS o no? Ecco Mario, una guerra che si fa senza farla, l'abbiamo sentito. Sì, Gaiani è stato perfetto. Io posso solo aggiungere un paio di cose per completare il quadro. Il primo è che c'è un precedente, l'invasione dell'Iraq. Il 18 di febbraio vennero ammassati 100.000 soldati per fare l'invasione il 20 marzo. Di tutto questo non c'è evidenza nella guerra contro l'ISIS. Ecco, quindi insomma, sono tutti uniti per bombardare poco, diciamo, questo sì, è il punto. Sono disuniti per bombardare poco. Ecco, ma senza fanteria mi pare che non si può vincere. Tutti bombardano, ognuno per conto suo. Non si può vincere nessuna guerra senza la fanteria, lo sanno anche i bambini dell'elementario. Ecco, intanto l'Italia l'abbiamo un po' sentito, che cosa fa? Ma sentiamolo dalla voce del presidente Renzi a New York. Noi non facciamo blitz e strikes, collaboriamo attivamente con la coalizione internazionale. La nostra Costituzione è un punto di riferimento, per cui il nostro lavoro è limitato in questo momento all'Iraq, perché è coerente con il mandato parlamentare e l'impegno costituzionale. Tale non sarebbe quello sulla Siria per motivi giuridici e di diritto internazionale. Quello che a mio giudizio è importante evitare è che si ripeta una Libia bis. Quindi più di così non si può fare. Ma guarda, secondo me la posizione di Renzi è sbagliata, perché è imparagonabile lo scenario della Libia del 2011 con lo scenario della Siria del 2015. Sono due cose completamente diverse, insomma, poi lo vedremo nel corso della trasmissione. Vabbè, certo, però, ma intanto una cosa colpisce di questi movimenti sullo scacchiere geopolitico è l'alleanza tra Mosca e Teheran, che oramai sono alleati anche sul campo di battaglia. Pietrangelo, questa alleanza, questa coalizione, da dove viene? Beh, intanto ne approfitto perché perfetta tutto ciò che diceva Gaiani, però una briciolina c'è. E la briciolina è questa: le truppe di terra ci sono, si muovono e sono proprio nel solco di quello che stai dicendo tu, Giovanni, cioè nell'alleanza tra Mosca e Teheran, perché sì, nell'informazione vero, sì. occidentale manca un tassello. Non viene mai detto che Qassem Soleimani, il comandante delle truppe di terra, che appunto parte da Teheran, certo. è l'unico che sì, sì. con la fanteria, diciamo, per intenderci, sì, cioè sì, mettendo per... gli scarponi sul terreno, sta combattendo la guerra contro i tagliagole dell'ISIS. Ecco, ma da dove nasce questa alleanza fra Mosca? Nasce e mi faccio aiutare da una vecchia canzone. Giocare col mondo. Siamo giusti. Ecco, è luglio, agosto, settembre nero, è una canzone degli Aria, un grande gruppo musicale italiano degli anni 70, ed è il racconto della catastrofe, cioè dell'occupazione della Palestina, ed è una ferita antica che nel grande gioco attuale ripete lo schema del passato. E questa guerra, quella che si consuma in queste ore in Siria, non farà altro che ripetere ancora una volta lo schema dei due grandi blocchi, da un lato le alleanze occidentali, dall'altro lato quello che era l'impero sovietico, che era a sua volta l'impero russo, che era a sua volta l'antico legame che collega Mosca direttamente nel Mediterraneo attraverso un percorso che da Teheran porta in Siria. Ecco, però ogni volta, il fatto è che ogni volta che c'è in ballo il destino finale di Assad, per tornare allo stretto della politica quotidiana, in realtà il mondo si divide. Si divide, Renzi dice, perché non bisogna fare la nuova Libia, ognuno ha la sua posizione, Putin difende Assad, Obama dice che taglia gole, eccetera. Però due anni fa, sulla fine di Assad, era nata un'alleanza inedita, anche questa, quella tra Putin e Papa Francesco. Ho lavorato a lungo con il presidente Obama e ho con lui una relazione personale improntata su una crescente fiducia. È una cosa che apprezzo. Ho seguito il suo discorso alla nazione e vorrei esprimere tutta la mia delusione per il suo passaggio sull'eccezionalismo americano, quando lui ha affermato che la politica americana deve essere all'insegna della diversità. Le politiche sono diverse, noi tutti siamo diversi. Ma quando chiediamo la benedizione di Dio, non dobbiamo dimenticarci che Dio ci ha creati tutti uguali. A questo punto mi domando, è possibile percorrere la strada della pace? Possiamo uscire da questa spirale di dolore e di morte? Voglio rispondere, sì, è possibile per tutti. Era il 7 settembre del 2013 e in Vaticano Papa Francesco celebrava una veglia della pace. Mario, ma cosa è successo da allora? Beh, è successo che si è fermato un bombardamento, che era quello previsto o quantomeno declamato da Obama, ma non la guerra. E la realtà è quella che dicevi anche tu. La guerra si ferma con la guerra alla fine, purtroppo. Questo è una però a questo punto, mi sembra che il quadro sia un po' più chiaro. Assad è il cattivo, ma meno cattivo, però sì. è sempre cattivo, sì. secondo il punto di vista, secondo da dove lo guardiamo. Intanto ricordo 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mi dicevi allora? No, che sì, è giusto l'analisi, sembra paradossale, ma qua bisogna guardare almeno peggio. Io ricordo che a Yalta c'erano tre persone, una in mezzo era Stalin, Churchill lo odiava, Roosevelt certo non lo amava, ma alla fine fecero l'alleanza insieme. Non a caso Putin ha ricordato poi di fatto questo episodio all'ONU, tanto per dire. Quindi insomma, il realismo politico è importante in questa vicenda. Però il realismo politico è importante, però è reale anche il fatto che l'ISIS intanto distrugge tutte le opere d'arte che incontra, l'abbiamo visto, e chi si oppone paga un prezzo molto duro. Massacrato per non aver voluto tradire Palmira fino all'ultimo. Khaled al-Assad sarebbe morto perché si era rifiutato di rivelare all'ISIS dove siano stati nascosti i tesori di Palmira. La sua morte ha sconvolto gli studiosi di tutto il mondo. L'archeologo siriano, per 50 anni a capo delle antichità nel sito di Palmira, è stato decapitato dopo un mese di prigionia. Il corpo dell'81enne studioso, una volta decapitato, è stato appeso a un palo della luce, ultimo sfregio non solo a un grande intellettuale, ma alla cultura millenaria di un luogo considerato uno dei tesori mondiali dell'archeologia. Pietrangio, quindi la storia si ripete sostanzialmente. È perché l'ideologia impone a tutti lo stesso canovaccio. Quando i tagliagole dell'ISIS distruggono la statua della Vergine, della Madonna Malula, non fanno altro che ripetere quello che i nostri nonni hanno già visto, ed era vicina la scena, quando a Madrid, per esempio, i cosiddetti rivoluzionari, tanto amati dall'opinione pubblica, e cioè i repubblicani, fucilavano e distruggevano la statua del Cristo Redentore. Ma se si tratta di andare a scavare nella memoria recente opere di inestimabile valore, realtà meravigliose, quale poteva essere per esempio la cattedrale di Cristo Redentore a Mosca, venne distrutta da Stalin e al suo posto venne costruita una piscina pubblica. Adesso la nuova Russia l'ha ricostruita. Stessa sorte accadde a preziosissime icone della cristianità che venivano utilizzate come bersaglio. L'ideologia impone sempre quell'idea che tutto debba ricominciare da zero. Infatti. E Berlusconi, per tornare sulla nostra politica, Berlusconi è stato da Putin pochi giorni fa per 5 giorni e poi ha detto di lavorare alla costruzione di un'alleanza con lui, ma cioè abbiamo 2 politiche estere, non so. Intanto sentiamo cosa ha detto Berlusconi da Atreju. Perché Putin è una persona rispettosa degli altri, è un riflessivo, è un uomo profondamente liberale, è uno che mantiene la parola data, è veramente un democratico. Bisogna andare ad estirpare il cancro dell'ISIS là. Come si può fare? Con un accordo, con una grande coalizione che sotto l'egida dell'ONU mette insieme gli Stati Uniti, l'Europa, la Federazione Russa, la Cina. Solo così si potrà risolvere quella situazione. Pensa come l'Europa sta girando la testa dall'altra parte sulla situazione medio orientale, sul fenomeno terribile dell'ISIS. Però abbiamo un rappresentante italiano in Europa fondamentale, che è la Mogherini. Scusi? Vabbè, a parte le battute, così sembra semplice, però Mario, sì. Noi non bombardiamo, seguiamo, però sembra appunto, come ti chiedevo prima, sembra che ci siano quasi 2 politiche estere, perché abbiamo sentito Renzi, adesso abbiamo sentito una versione un po' diversa. Però poi se guardiamo le cose, adesso Berlusconi ha rapporti eccezionali con Putin, lo sanno tutti, anche i sassi, no? Non solo con lui. Inoltre se guardiamo lo scenario, con fatica, con 1000 contraddizioni, però questa cosa si sta pure realizzando, perché alla fine il Pentagono e il Cremlino si sentiranno e finiranno per coordinare i bombardamenti, per esempio. L'Europa verrà più coinvolta tra Francia e Regno Unito. Cioè, quello scenario che abbiamo sentito dire da Berlusconi, che nessuno prende sul serio, in realtà poi sta accadendo in qualche maniera. Confusa, però... Capita. Marco di Bolzano ci dice: dalla storia impariamo solo una cosa, che non impariamo niente dalla storia. Vabbè, insomma, triste. Per i distruttori di opere d'arte sono anche distruttori di umanità, dice Ulisse, è vero. E poi per alleggerire, sempre Alessandro da Udine ci chiede dov'è la Tardelli. La Tardelli è stata promossa e adesso lavora in televisione e fa il processo del lunedì e ci ha abbandonati perché è andato nel mezzo più forte. Allora Pietrangelo, questo, tanti auguri alla Tardelli. Pietrangelo, ma perché è così difficile per l'Occidente comprendere la civiltà e la cultura russa? Per l'Occidente è difficile perché la civiltà e la cultura russa è profondamente europea. Europea nel senso di Europa, cioè di un continente che contiene dentro di sé proprio il germe vitale dell'Oriente. E mi aiuto facendovi ascoltare le parole di uno zar. Il soldato russo è valoroso, stoico e paziente. Per questo è invincibile. Vogliate bene ai vostri soldati russi. Abbiate cura di loro. Alla vostra salute, cadetti. Ora! È Ecco, si sentono le note dell'inno russo. E quando si dice inno russo bisogna pensarne due. Per questo non riusciamo a capire loro, ne hanno due. Hanno quello che hanno ereditato dall'Unione Sovietica cambiandone le frasi. E poi lo stesso autore, Mikhalkov, ha cambiato le frasi. E poi hanno l'inno imperiale russo. E quando si dice impero ci si riferisce ad una realtà che ne contiene tante, tantissime, tant'è vero che il 23 settembre scorso Vladimir Putin, inaugurando la più grande moschea d'Europa, ha proclamato l'Islam come una delle supreme religioni del mondo, e lo ha proclamato in una terra totalmente cristiana, con la consapevolezza di vivere insieme in una comunità che si riconosce nel sacro. Ecco. Intanto, quindi l'Occidente, niente. Vabbè, adesso deve fare anche la chiosa, no? Insomma, parliamo dell'Occidente che soffre perché mentre i russi, gli americani, i francesi bombardano, le sanzioni, le famose sanzioni, continuano a indebolire l'economia russa, ma anche quella italiana. E sentiamo una testimonianza del produttore di un grande marchio italiano, Alberto Auricchio. Lei quanto esportava con la sua azienda in Russia prima delle sanzioni? Questo è un chiodo dolente per me. Come gruppo, quindi, tra tutti i vari marchi, sia il marchio Auricchio che altri marchi, che noi avevamo quasi 7 milioni di euro, era veramente, ed era in crescita ogni anno, veramente interessante. E le sanzioni hanno ridotto a zero? Le dico questo, che oggi rido, ma le assicuro che l'anno scorso non ridevo. L'8 agosto, me lo ricordo sempre, camion già sdoganati in Italia, quindi teoricamente non più italiani, sono stati rimandati indietro alla frontiera perché non dovevano essere in Russia entro quella data fatidica. Ecco. Quindi zero completo da quella data. E come fa a ridere? Ha trovato altri mercati? Dopo un anno rido, perché per non piangere, diciamo. Ah, solo per quello? Noi abbiamo cercato ovviamente di spingere su altri mercati. Con la Russia non c'è stato niente da fare. Ho avuto qualche amico che mi ha detto: no, ma guarda, se passi dal Kazakistan, se passi dalla Turchia, noi non ce la siamo da una parte sentita e dall'altra non abbiamo trovato nessuna strada. Oltretutto, recentemente abbiamo visto in televisione che Putin ha schiacciato sotto i trattori proprio formaggi e altri prodotti provenienti dall'Europa. È un danno grandissimo che io veramente mi auguro che al più presto venga risolto. Ecco, senta, ma i formaggi che consumano oggi i russi, che consumavano tanto formaggio, sono altri, da dove vengono? Ecco, Minoli, questa è la domanda più preoccupante per l'Italia, poi è ovvio, certo, anche per me, no, ma per l'Italia, perché il mio importatore mi dice: Alberto, finché sono 2, 3, 4 mesi è un conto, dopo un anno non è che i russi non mangiano più, si stanno rivolgendo al Sud America, dove importano il reggianito, il provolao, non rida ma è vero, e importano tutti i formaggi simili italiani. Cioè provolao meravigliavo praticamente. No, meravigliavo no, ma provolao fatto in Argentina e Brasile, ecco, che costano oltretutto molto meno. Dopo un anno il consumatore russo cambia gusto e si abitua. E se anche un domani, come tutti noi ci auguriamo, verranno tolte le sanzioni, sarà estremamente dura, ecco, Riconquistare un mercato che era solamente europeo e, devo dire, più che europeo, molto italiano. Senta, ma cosa dovrebbe fare subito allora, secondo lei, governo Renzi? Questa è una domanda trabocchetto, Minoli, perché io non sono un grande politico. No, ma non deve essere politico. Secondo me doveva dire che le sanzioni l'Italia non le seguiva. Io capisco che siamo in Europa, ma bisognerebbe veramente lavorare tutti i giorni a cercare di risolvere questo problema, che non è vero che è marginale. Io ho sentito anche qualche nostro politico che ha detto che è marginale. No. Cioè, tutti i salumi, tutti i formaggi, frutta e verdura che sono bloccati. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS, insomma, bombardano tutti insieme, anche se tutti separati, ognuno per conto suo, però nello stesso posto, però tutto sommato non si riesce ad accorciare distanze con la Russia e togliere le sanzioni. Insomma, bisognerebbe togliere queste sanzioni, Mario. Risposta secca, sì. Cioè, tu, sì. Secondo te, Pietrangelo? Va da sé, sì. Sì, bene. Sì. E allora, lo ripeto, forse per sperare di trovare una soluzione, resta questa coalizione con l'ONU e la speranza anche che può venirci da una canzone che era un manifesto del 68. Mettete i fiori nei vostri cannoni. diverse, socialmente differenti, in giro per le strade della loro città cantavano la loro proposta. Ora pare che ci sarà un'inchiesta. Tu, come ti chiami? Sei molto giovane. Mix 24. (800) 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS buttafuoco, com'è che dice? Sogno buttafuoco presidente del mondo, Stefano. Addirittura. Stefano ti vuole presidente del mondo, no? Ma non male. Chi abbiamo al però telefono? Sono monarchico. Imperatore del mondo, buttafuoco, imperatore del mondo. Mi sembra che ci possiamo stare. Quello fu un altro siciliano. Pensi che l'anno scorso volevamo farlo solo ministro della cultura, tra l'altro. No, siamo arrivati imperatore. No, però. Cioè, non so l'anno prossimo. Senti, abbiamo al telefono Daniela da Napoli. Daniela, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'intervento. Dica. Allora, io volevo dire questo, che il motivo, a mio avviso, ma penso che sia allora sotto gli occhi di tutti, per il quale superpotenze che hanno hanno quella potenza bellica per essere in grado di debellare tutto il movimento dell'ISIS anche in tempi celeri, questo non avviene, perché le stesse potenze belliche che potrebbero farlo sono interessate, in quanto sono i maggiori produttori di armi, quindi parlo di Stati Uniti in primis, la Cina, la Russia, la Francia, la Gran Bretagna. Quindi è tutta una grande ipocrisia, perché noi abbiamo visto già come già gli soli Stati Uniti in pochissimo tempo, quando hanno voluto, sono stati in grado di debellare i talebani, così come altri popoli. Quindi è solo una grandissima ipocrisia. È il commercio delle armi. Loro in questo momento hanno più interesse a vendere. Tutti. Bene, questo sicuramente è vero, non c'è dubbio che il mercato delle armi poi è quello che muove il mondo. C'era però tutti sono film. Contro le armi, ma tutti le vogliono, le usano, le producono, perché le vendono. Che c'è guerra, c'è speranza. Ci abbiamo ancora una telefonata, Fabrizio da Genova. Fabrizio, buongiorno. Sì, buongiorno Fabrizio, dica. Io ho sentito quello che stava dicendo quella persona. Sì. E effettivamente io ho l'immagine di questi SUV che sfilano nel deserto, non so dove, nuovi di zecca, quindi e non solo quello, ma poi tutte le armi, cioè uno si chiede. Insomma, dove li comprano, dove prendono questi soldi, certo, per comprare? Certo. In definitiva, da qualche parte le prenderanno. Poi certo. Beh, sono anche molti. Chi è che c'era inventato sto progetto ISIS? Sembra una bella domanda. Questa è una domanda a cui io non sono in grado di rispondere. C'ho qualche piccola opinione, che però aspetto di verificare prima di dirla. Grazie. Grazie a lei. La canzone di buttafuoco. Scratch a ticket with a leg of a cricket and a guy. Triple Jesus. Cashed in for Siamese twin at the family firing range. I went to bed and woke up beside another man's head. Nobody noticed. I'm so excited the senators are fired. Don't tell me nothing's changed. E allora Pietrangelo? Non ci credere. Guarda che c'è uno però, prima ti abbiamo fatto sì, imperatore, uno che dice che ti pagherebbe un biglietto di sola andata per lo Stato Islamico, quindi diciamo da imperatore. Però io sono con gli altri. Tot capita. Vedi la confusione, perché vedi è una disperazione far capire. Già l'opinione vero, pubblica non sa molto distinguere tra cattolici, protestanti, calvinisti. Figurati se riescono a distinguere fra sunniti, sciiti e tutti gli innumerevoli. Questo è molto allora, giusto. Questo signore sarà appunto convinto che tutta erba è un fascio. Che tutta erba è un fascio. Il fascio c'è, ma non è un'erba. Allora, la canzone. Find it. Allora? Non ci crederete, ma stamattina, arrivando in redazione, squillava il telefono, il centralino, e sapete chi mi ha chiamato? Come ai vecchi tempi, come se fossero gli anni... cos'erano? Gli anni 70, gli anni delle radio libere? Beh. Ecco, ma ha chiamato... Cyrano de Bergerac in persona. Accidenti. E tornando dalla luna ha voluto apposta sentire questa canzone per fare come si faceva una volta una dedica, e quindi Cyrano de Bergerac fa una dedica a Roxane, la sua cugina Maddalena Robin. Roxane, ma chissà chi. In metropolitana. Senti, ebbene, ma questo, speriamo, perché la poesia nasce lì. Ecco, Mario, nella tua pentola la bolla cattiva di oggi qual è? Che niente poesia, vai con Rocky. Quanto mi carica questa musica. Giovanni, c'è il Senato che fa i suoi lavori. Allora, è una giornatona, Si vota. Una giornata, si vota. Grasso deve decidere cosa fare con il canguro. Poi c'è l'emendamento, cari ascoltatori, l'emendamento che fa cadere tutti gli emendamenti. E poi c'è il Parlamento che cangura, fa eccetera. E c'è il Parlamento che si riunisce in seduta comune per eleggere che cosa? Tre giudici costituzionali. Sì, mi ero dimenticato. Al primo colpo. Mi ero dimenticato di questa cosa. Devono eleggere tre giudici costituzionali, perché al plenum della Corte ne mancano tre. In fondo, oggi ci riprovano. In fondo, dicevo, sono solo alla 27esima seduta per uno dei due, dei tre. Sì, non è male. Ora, solo una domanda finale, Giovanni. Solo una domanda sulle note di Rocky. Ma se trattano così la Consulta, come tratteranno tutto il resto? Lo sapremo, anzi lo stiamo vedendo. Pietrangelo, il tuo salamino? Il mio salamino in arrivo. È sempre la buona notizia. No. Perché, come si dice, Mario? Good news. Good news in tutta... No, devi contrarre la di good news. Good news. Ok. Good news in tutta l'Italy. Allora, non avete saputo che intanto non è più Fratelli d'Italia l'inno della Repubblica Italiana, ma l'Italy ha questo inno, appunto, questo che state sentendo. Ecco. E passerà in rassegna! No. Non più i soldati, altro che militari, ma soltanto simpatici giovanotti col giubbino. Ma questa Italia ha solo buone notizie. Per esempio, piove, l'acqua si subissa. Non è vero. Tanto per cominciare, virgolette, siamo usciti dalle sabbie mobili, chiuse virgolette, lo ha dichiarato Matthew, che altro non è, cioè sarebbe quello che una volta si diceva Matteo, cioè il boss del consiglio d'amministrazione del governo, amministratore degli altri. Hanno cambiato. Perché, Giovanni, tu non hai ancora non hai introiettato. Guarda che introiettato non è la parola male. Complicata per i piritolli. Ecco, il dizionario piritollo prevede che ci sia tutta sta cosa Matthew, cioè vanno lì e lo chiamano ancora Matthew, ancora non lo sai dire, e lui Matthew è... è amministratore delegato di Italy, che non è l'Italy di Oscar Farinetti, ma quasi. Stamattina in metropolitana mi sono accorto che leggo il quotidiano distribuito gratis, così titola: lavoro, virgola, la svolta, punto. E io ho capito qual è la svolta. Lavoravo in quel di Baggio e mi ha licenziato a maggio. M'ha chiamato il direttore e mi fa: caro signore, con quei tic non rende niente. Sembra quasi un deficiente. Ecco, basta gufi, sembra squillare il Corriere della Sera, perché dice che la disoccupazione è al di sotto del 12%. È vero. Infatti io ho capito, cioè sono 12 che fanno le start-up e 100 che invece hanno un'app. Sapete qual è? Me l'ha detta Salvo Pipero. È a pane e cipolla. Ma piove? L'acqua si subissa? Non è vero! No, non è vero, perché la stampa libera, dove tu dovresti essere proprio uno dei rappresentanti. Io? Sì, devi invece di fare il critico e ce l'hai sempre contro Renzi. No, io. Sei un odiatore, sei un gufo, ce l'hai contro Renzi, vergogna. Un buffone. Vabbè, lo difendo io, non preoccupare. Un giornalista dalla schiena dritta, non quello è che si fabbrica la verità, e perciò, Rittissimo. Sapete cosa è successo? Basta con. Basta con le previsioni del tempo, no. Basta con tutti sti nuvoloni plumbei, perché sull'Italy c'è splende sole. Sempre sole che sorge. Splende il sole sorge. Luca Lotti, che è il Dante Causa per i rapporti tra il governo e l'informazione, attacca anche, sapete cosa? Basta più. Vabbè, ma il segnale orario. Sì, basta il segnale orario, perché ha detto in un comunicato del governo che quel suono antico e ripetitivo non batte il ritmo frenetico insieme solenne della rivoluzione di Matthew. E quindi solo good news nella Matthews Italy. Oh, l'ho indovinato il genitivo sassone? Sì. Com'è che dici? Matthews. Italy. E no. Quindi soltanto svegliette. Io tengo una sveglietta qua. Vabbè, la metto qua. Quando cammina fa ticchetta, ticchetta, ticchetta. Vabbè, dopo questa lezione, questo editoriale illustrato fantastico, a Roma si apre domani una mostra fotografica, La nostra storia, 60 anni dell'Italia e del mondo attraverso le foto dell'Espresso. Luigi Vicinanza, direttore dell'Espresso, 60 anni di fotografie, per dire cosa? E per raccontare innanzitutto la storia d'Italia, perché attraverso l'Espresso noi raccontiamo la storia del nostro paese e i grandi avvenimenti internazionali. E quali sono le foto più importanti per te? Guarda, ci sono sicuramente quelle molto, molto evocative della guerra del Vietnam, c'è lo scatto celeberrimo della bambina che scappa nuda, e ci sono però gli scatti successivi, quelli che non sono stati mai pubblicati. Quindi ci sono degli inediti? Ci sono anche degli inediti, sì. C'è una foto, questa non è inedita, di un giovanissimo Berlusconi, ci facevamo anche una copertina anni fa, di un giovanissimo Berlusconi con la pistola sul tavolo. Ecco, tu dirigi una grande testata in un momento difficile però per i giornali e soprattutto per i news magazine come l'Espresso. Nel mondo ci sono formule vincenti per recuperare il ruolo dei news magazine? Guarda, è un mondo in continua evoluzione che va per sperimentazione. Io sono convinto che i lettori vogliono sempre giornalismo e giornalismo di qualità, quale che sia lo strumento e la piattaforma del momento. E il News Magazine lo è ancora? Il News Magazine lo è ancora, perché ecco, in un momento di flusso continuo, ininterrotto di informazioni, quando le informazioni persino ti inseguono e tu neanche le vuoi, hai bisogno di un'ancora. E un'ancora per riflettere. Sì. Ecco, l'Espresso in estate è stato al centro di uno scoop importante sulla sanità siciliana, scoop che non ha potuto essere confermato dai fatti. A che punto siete? C'è un'inchiesta in corso. Noi nell'era digitale abbiamo un punto debole in questa vicenda. Non possiamo far sentire l'audio di quella intercettazione. Che esiste. È esistito perché i nostri collaboratori in Sicilia lo hanno ascoltato. Adesso le procure, la procura di Palermo e le altre procure dicono che questo oggetto non esiste. Bene, ne prendiamo atto, però è nostro interesse sapere che fine abbia fatto. Dai giornali locali, un'ultima domanda, dai giornali locali che hai diretto e coordinato per anni, a un news magazine è stato un salto difficile su cosa? Innanzitutto la tempistica, perché la tempistica del settimanale è più difficile e più complicata rispetto certo. a quella del quotidiano, perché devi prevedere, lavorare devi prevedere. Devi prevedere, esatto, devi prevedere e devi aggiustare il tiro di giorno in giorno. Credo che l'elemento comune comunque sia l'ancoraggio con la realtà. I lettori vogliono storie, grandi grandi storie, che siano storie locali o storie nazionali o internazionali. Questo è quello che unisce. Ricordo la nostra storia, 60 anni dell'Italia e del mondo, attraverso le foto dell'Espresso al Vittoriano di Roma. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile, vi presenta Mix 24. Mario, c'hai ancora una bolla? Sì. La verità è giusta, la verità funziona, la verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, la verità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. Io adoro Gordon Gekko. Io no. Non so se sei capito. Volevo solo informarvi una cosa, sono molto dispiaciuto di questo annuncio che devo fare, ma secondo il rapporto di McKinsey, appena uscito, sul Global Banking, senti un po' Pietrangelo. Global Banking, la tecnologia digitale avrà un effetto tale nei prossimi 10 anni sul settore bancario che non ci sarà più lavoro per nessuno. 2/3 dei guadagni verranno decurtati da questa cosa. Delle banche, per esempio, il settore dei prestiti per comprare le macchine, tanto per dirne uno così, dei citati. Dimmi, Pietro. Per aggiornare il linguaggio, sarebbe quindi un progetto di mondializzazione? Sì, una cosa che a te non dispiace, poi in fondo, se ci pensi. Mi dispiace tantissimo. Vabbè, insomma, su mondializzazione sì, mondializzazione no. Adesso il professor Roberto Bernabei, con lui commentiamo le più importanti notizie di medicina. Cina, come ogni giorno, apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA del 14 luglio 2015. Politerapia nel paziente anziano. Gestione dell'ipertensione negli ultraottantenni. Professor Bernabei, cosa ci dice questa notizia? Ma avrete tutti letto in queste ultime settimane che un lavoro del National Institute of Health americano dice che tra 140-90 depressione e 120-80 bisogna rigorosamente stare su 120-80 perché diminuisce la mortalità e il rischio di malattie cardiovascolari collegate alla pressione alta. Allora, questo è un warning, è una bandierina rossa importante, ma attenzione, e questo è il bello di questo articolo, perché questo articolo dice non tanto e non solo quanta pressione bisogna curare e quali sono i valori che devono essere mantenuti, come ci dice il National Institute of Health, ma ci dice, ma se uno ha più di 80 anni e ha la pressione alta, però insieme alla pressione alta ha un mucchio di malattie e assume un mucchio di farmaci, come bisogna comportarci? Allora, il punto è molto chiaro. Se uno ha dai 50 fino agli 80 e più, ma solo la pressione alta ed è per altri versi in buone condizioni, il limite è 120/80. Il problema è che se invece uno ha più di 80 anni, ma è affetto da patologie concomitanti, come si dice, come capita, delle altre malattie, come capita ormai a quasi tutti, lì non bisogna essere così rigorosi, anzi, bisogna insieme con il proprio medico concertare quello che è il valore da mantenere e qual è la terapia da assumere in modo prioritario rispetto alle altre che devono essere fatte. Quindi bisogna un po' fare con il proprio medico una regia. E hai visto mai anche qui che non ritorna quel vecchio adagio per il quale, vi ricordate, 100 più l'età che uno aveva era la pressione da mantenere? Non sarà così, però ci dice che deve essere ridiscusso con il vostro medico. Good afternoon. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. Barack Obama annuncia la ripresa dei rapporti diplomatici tra gli Stati Uniti e Cuba, l'isola della rivoluzione castrista, il 17 dicembre 2014. Todos somos americanos. Come Ich bin ein Berliner, che Kennedy pronuncia a Berlino nel giugno del 63. Anche Todos somos americanos è destinato a entrare nella storia. Da allora altri passi importanti. La riapertura delle ambasciate e la cancellazione di Cuba dalla lista dei paesi fiancheggiatori del terrorismo. Poi, in questi giorni, il viaggio di Papa Francesco a Cuba, negli Stati Uniti, viaggio storico che ha cambiato definitivamente i rapporti tra i due paesi. Francesco è tornato a Roma poche ore fa da Cuba, porta con sé la fine di un incubo vissuto in quei 14 giorni nell'ottobre del 62. A Mix 24, per il giallo della storia, raccontiamo quell'incubo della Terza Guerra Mondiale vissuto in quei giorni, i segreti della diplomazia, i misteri delle testate nucleari a Cuba e in Italia, tra pochi minuti dopo il giornale radio.